il mio disco nei negozi e tu lo stai già scaricando. Il tempo stringe ma sento il mio culo che si sta allargando. È proprio vero che la crisi un po' ci sta cambiando. Ma ciao, come si chiama questa bella bimba? Armando. L'atteggiamento dei miei fan giuro che mi sta stressando. Chiederebbero la foto pure mentre sto cagando. E con tutto questo affetto mi sento così commosso. Però fammi andare al cesso che mi sto cagando addosso. Poi importa se i colleghi dicono che io non spacco. Già loro brucia il culo, io le ortiche sopra il cazzo. Mettiti le scarpe di cemento con il tacco e baffondo insieme a tutti i tuoi cazzoni di schifacco. Quando io stavo alle jam tu ti mangiavi la bruschetta. Il tuo DJ porta i piatti, tu coltello e forchetta. La tua tipa biondo platino avrà pure la frangetta. Ma quando la baci sembra che ti slingui David Guetta. Dai cazzo Federico, ti butti sul sociale. Però quando ti lanci vedi di non farti male. Corri finché puoi sopra dei vetri piedi scalzi. E non ti preoccupare quando finirai nei cazzi. Se stai col culo a terra sai che quando ti rialzi noi, voi, non ci sarete. Il mio rap è una carezza con le mani unte. Tra infami con la doppia faccia e troie con le doppie punte. Le tue due copie vendute non sono pervenute. Se fallisco andiamo a consegnare pizze con lo scooter. Il manager non sa che sono un po' in ansia assurda. Si fa le canne e poi collassa sul divano dello studio. Qui spesso l'apparenza ti nasconde un lato scuro. Come a volte un brutto naso ti fa perdere un bel culo. Ma è vero che voi rappers non siete veri artisti e che vendete il culo ancora prima di vendere i dischi. Scrivi testi ma detesti manifesti comunisti. Ma ora Quetti produce come Eminem con 50. Siete dei fake di merda, sempre a copiare gli americani, cazzo. Stra Tiziano che era gay e faceva lo sciupa femmine. Chi si è fatto una carriera copiando i testi di Eminem. Se cerchi doppie facce qua trovi un terreno fertile. Ti sento moscio come un cazzo in disfunzione rettile. Dai cazzo Federico, ti butti sul sociale. Però quando ti lanci vedi di non farti male. Corri finché puoi sopra dei vetri piedi scalzi. E non ti preoccupare quando finirai nei cazzi. Se stai col culo a terra sai che quando ti rialzi noi, voi, non ci sarete più. Dici che sono fake perché giro col tutù. E che il vero hip hop lo spinge solamente la tua crew. Ma poi vedono uno spicciolo e vedi che incominciano a fare tutti il singolo cantato in autotune. Come la metti adesso con la tua cultura? Io perlomeno non mi riempio la bocca di spazzatura. Io ho regalato un disco registrato ad alto budget. E tu vendi a 5 euro un mixtape da 10 tracce. Se poi ci mettono in manette per gli album illegali, dividete detenuti per generi musicali. Che già andare in galera mi sembra una brutta storia. Sai che sfiga stare in cella insieme ad un fan di Foglia. Fedez, è vero che i tuoi live gira MD con l'acqua tonica. E che sei il gran maestro di una loggia massonica. È vero che suoni col culo la fisarmonica. E ti esco un pezzi più belli della tua musica solita. Dai cazzo Federico, ti butti sul sociale. Però quando ti lanci vedi di non farti male. Corri finché puoi sopra dei vetri piedi scalzi. E non ti preoccupare quando finirai nei cazzi. Se stai col culo a terra sai che quando ti rialzi noi, voi, non ci sarà.